La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati all'appuntamento con il cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, il cinema che c'è in sala, soprattutto in sala, ma non solo. Qui, come sempre, su Radio 24, per un'ora staremo insieme, giocheremo insieme, vi racconteremo un po' il meglio che c'è da andare a vedere in sala, ma parleremo anche di musical, parleremo della giornata della memoria, avremo davvero tanti argomenti, anche molto vari, che affolleranno la nostra trasmissione, che comincia comunque proprio con la giornata della memoria, che è ormai imminente, settimana prossima, il 27 gennaio, ma siccome come sempre noi andiamo in onda il sabato e sarà il 28, allora abbiamo voluto anticipare tutto a questa settimana, perché come sempre in questi casi arrivano nelle sale film che hanno quella tematica, la rielaborano, la guardano con l'occhio del passato o anche con l'occhio del presente, come accade quest'anno. Ma io vorrei partire da un film che è l'unico di tenitura tra quelli che escono questa settimana su questo argomento, e si intitola Nebbia in agosto. Papà! Che fine hanno fatto i capelli? Sembra uno scemo. Oh, no. Allora si parte. Andiamo in America. Sì. A che posto è questo? Ci stanno solo scemi. Che posto è questo? Dice il padre al figlio. Siamo nella Germania del Sud, nell'inizio degli anni 40. Ernst è un bambino di 13 anni, orfano di madre, di etnia Jenisch, che è la terza etnia nomade dell'Europa in quel momento, dopo Rom e Sinti, e che è stato mandato in questa, diciamo, casa che è una sorta di ospedale psichiatrico a causa della sua natura ribelle. È un ragazzino intelligentissimo, molto vivace, molto disposto ad aiutare gli altri, però nelle case, nei riformatori nei quali ha vissuto, era stato giudicato sostanzialmente ineducabile e perciò stesso mandato in questa unità medica diretta da un dottore che pare essere molto vicino ai suoi pazienti grandi e piccoli, che sono persone con problemi di carattere psichiatrico, soprattutto di questo tipo, anche con malattie difficilmente riconducibili o comunque come dire, contrassegnate come inguaribili. Ebbene, in questa unità, a un certo punto, con la guerra che è sempre sullo sfondo, con il nazismo che è sempre sullo sfondo ma neanche troppo, in questa unità arriva piano piano la mano nera della soluzione finale. Ovvero quella di non pensare più, di rieducare o comunque di gestire la situazione di questi pazienti, soprattutto dei più piccoli, ma di portarla al compimento finale. In questa traiettoria si interseca la storia di Ernst, che appunto sogna di andare in America, perché questa era la promessa che gli aveva fatto il padre. Quando il padre arriva, avete sentito nella clip, non gli viene consegnato il figlio per una questione burocratica, e da lì comincerà davvero l'inferno. Le cose che colpiscono molto in questo film, Nebbia in agosto, che io vi consiglio veramente di andare a vedere, perché è un film di una durezza incredibile, ve lo dico subito, però che squarcia un altro velo su quel periodo e su quella storia. Ecco, dicevo, le cose molto molto dure, forti di questo film sono due. Uno, che è una storia vera. Ernst è esistito realmente e tutto poi viene spiegato nel film e anche alla fine del film. Quindi preparatevi a una storia che veramente è inedita, almeno per quanto riguarda il cinema. Due, è che la regia di Kai Wessel è davvero, da un certo punto di vista, molto narrativa, dall'altro però con una progressione di durezza nell'arrivare al cuore del problema che lascia senza fiato lo spettatore. Quindi per la giornata della memoria, ma anche per il buon cinema, il consiglio di Nebbia in agosto c'è. Sentiamo anche Boris Sollazzo per capire se è d'accordo con questa analisi. Ciao Boris. Hai ragione, soprattutto sotto il punto di vista della regia e della scrittura anche narrativa del film, perché Kai Wessel apparentemente può sembrare quasi un difetto il suo modo quasi clinico, quasi antropologico di portare avanti il film, di raccontare il film. In realtà è uno stile ben preciso che obbedisce alla durezza della storia e forse all'unico modo di raccontarla, perché narrare quel tipo di orrore secondo me è possibile solo offrendone la banalità renziana, cioè la capacità che hanno avuto i tedeschi in quel periodo, direi di non generalizzare come popolo e di dire i nazisti, nel sistematizzare l'orrore, e l'orrore in questo caso non fa paura in quanto crudeltà, ma fa paura in quanto quotidianità. Da Schindler's List in poi l'impressione è che i film sull'olocausto siano cambiati, forse perché nel momento in cui arriva Spielberg a fare il più classico di film sul lager, probabilmente la narrativa sull'olocausto aveva esaurito la sua forza primaria, che era quello del racconto del campo di concentramento, e aveva bisogno di andare altrove. E secondo me è nato un nuovo genere che va in sottogeneri completamente diversi, dal noir quasi del Falsario fino al film d'autore coraggioso e estremo come Il figlio di Saul. E questo si inserisce in un altro sottogenere ancora, Nebbia in agosto, perché ci dice che l'olocausto non è stato solo un attacco ad ebrei e nomadi, ma ai diversi, sostanzialmente, a chi minava la purezza di una razza ariana che voleva essere perfetta. E allora il pazzo, quello vivace, quello impossibile da etichettare, diventava un problema da risolvere con la crudeltà quotidiana più estrema, un'eutanasia su una persona sana, ma semplicemente diversa. Ne sono morti quasi 200.000, quasi tutti i bambini, in questo modo. E noi lo veniamo a scoprire, come spesso accade con questi film, proprio attraverso Nebbia in agosto. È uno dei tanti orrori dimenticati o poco narrati del periodo dell'olocausto, anche precedente, perché tutto questo inizia nel 39, e lo facciamo grazie a un ragazzino che è il protagonista, dal cognome impronunciabile, ma dal talento chiarissimo. E Bessel forse poteva permettersi, se vogliamo proprio essere pignoli, poteva permettersi qualche guizzo in più, qualche visione un po' più audace, ardita, però è anche vero che quando tratti questi argomenti forse la cosa più importante è offrire la conoscenza al tuo spettatore. Nella Settimana della Memoria ci sta un film anche con dialoghi più didascalici, con l'orrore più spiegato che magari mostrato attraverso le immagini. E allora, Boris, direi che è assolutamente promosso questo film. Come sempre, scriveteci quando poi andrete a vedere i film che vi consigliamo, un po' il vostro parere, siete d'accordo o non siete d'accordo, sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea @ La Rosa Purpurea Radio 24, oppure in una mail che era La Rosa Purpurea @ radio24.it. Tra poco, dopo la viabilità, torniamo, vi accenniamo un altro paio di film che arriveranno sugli schermi in questa Settimana della Memoria, e poi si parte con le altre novità della settimana. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea continua, stiamo parlando delle novità della settimana. Abbiamo cominciato con Nebbia in agosto, il primo dei film, anzi l'unico dei film che questa settimana già arriva nelle sale per la Giornata della Memoria, ma ce ne sono due che arriveranno settimana prossima. Voglio segnalarveli perché è giusto anche raccontare queste storie. Per esempio, il 24 gennaio arriva nelle sale Il viaggio di Fanny, un'altra storia vera, tra l'altro di una donna che oggi è 86enne e vive ancora a Tel Aviv, che racconta la storia di tanti bambini che durante la Seconda Guerra Mondiale sotto il regime nazista erano costrette ad affidare i propri, a famiglie che erano costrette a affidare i propri bambini a delle organizzazioni clandestine che li nascondevano sostanzialmente, e Fanny faceva parte proprio di una di queste comunità. Il viaggio di cui si parla nel titolo è quello che questa ragazzina ebrea 12enne dovette affrontare per scappare dal proprio rifugio e cercare riparo in Svizzera. E poi c'è invece, come dicevo in apertura di trasmissione, chi ci ragiona con l'occhio di oggi, con l'occhio del presente, quello che fa Sergei Loznitsa con Austerlitz, un documentario, anche questo distribuito dalla Bottanta nelle sale a partire dal 25 di gennaio, quindi sempre settimana prossima, film presentato fuori concorso tra l'altro al Festival di Venezia, e che racconta invece cosa è diventato oggi il campo di concentramento come meta turistica, fatemi dire. Ci sono luoghi in tutta Europa che custodiscono le memorie di questo passato doloroso. Piano piano il viaggio ad Auschwitz, il viaggio a vedere da vicino, a toccare con mano l'orrore, è diventato anche una necessità, una cosa che è stato sempre più possibile affrontare, però forse è anche sfuggito un po' di mano. E allora, partendo proprio da questo tipo di situazione, dai selfie scattati davanti all'entrata, alla scritta Arbeit macht frei, eccetera, si ragiona su cosa è diventata la memoria e su cosa significa memoria rispetto alla fruizione presente di un luogo che forse dovrebbe avere una sacralità diversa. Questo è Austerlitz, appunto, nelle sale cinematografiche dal 25 di gennaio. E così chiudiamo il capitolo sulla giornata della memoria e entriamo invece nell'evasione pura, anzi proprio nel film per famiglie, quando non addirittura per bambini, con Qua la zampa. Esistono domande fondamentali, tipo: perché siamo al mondo? Perché l'uomo apprezza le cose solo quando non ci sono più? E perché la pappa per terra è sempre la più gustosa? Io ero questo, poi questo. E sono tornato che ero quest'altro. Chi lo dice che i cani non abbiano 7 vite? Ma cominciamo dall'inizio della nostra storia. Che per me inizia con un bambino di nome Ethan. Bailey, Bailey, Bailey, Bailey. A quanto pare mi chiamavo Bailey, Bailey, Bailey, Bailey. Avete sentito la voce familiare di Gerry Scotti, che è la voce appunto del cane protagonista di Qua la zampa. È un film di Lasse Hallström, un film che porta un titolo, una regista importante, un regista molto molto premiato anche nei grandi festival, e che all'inizio della sua carriera firmò anche un film che si intitolava La mia vita a quattro zampe, quindi, come dire, evidentemente il tema del cane è molto caro a Lasse Hallström. È un film con Dennis Quaid, questo, che ha un titolo originale che è A Dog's Purpose, e che racconta una storia inventata nel 62, che comincia nel 62, quando un bambino e la sua mamma salvano un cucciolo di Golden Retriever che hanno trovato ferito, che cresceranno insieme e che a un certo punto morirà, perché i cani muoiono, l'abbiamo provato a tutti questa brutta esperienza, ma si reincarnerà, perché è l'assunto del film: i cani hanno sempre una seconda o la terza vita e infine, alla fine, ti vengono sempre a cercare, magari sotto altre forme. Boris, Lasse Hallström, film che parrebbe proprio di identificato come un target di bambini, come si sposano queste due anime, quella estremamente popolare e quella di un regista che comunque, per quanto magari un po' mieloso in alcune delle sue opere, però insomma è un regista di tutto rispetto? Beh, che sia ossessionato dalla vita da cani lo ricordiamo anche per Acico, in cui ci faceva piangere lacrime di sangue per questa storia vera, tra l'altro, di un cane che aspettava il suo padrone alla stazione, nonostante appunto durante uno di questi viaggi il padrone avesse lasciato questa valle di lacrime. E devo dire bene alla fine, nel senso che io sono un fan dei film che ci fanno piangere tutte le nostre lacrime nel momento in cui dall'altra parte della macchina da presa c'è uno che sa come manovrarla, sa come manovrare anche un po' noi, come manipolare noi. Qui secondo me poi riesce a far recitare benissimo un cane attore e anche un attore cane, perché Dennis Quaid non è proprio un esempio brillante di talento interpretativo, e lo vedi perché tra i due protagonisti sicuramente c'è più espressività nel cane, anzi nei cani, perché appunto, come hai detto, ci sono reincarnazioni varie, tra l'altro legate anche a cambi di sesso, di razza, di qualsiasi tipo di diversità che possa esserci. Il film è elementare, è una favola, è la favola di due cuori che si incontrano e si reincontrano inevitabilmente, perché il loro amore è più forte di tutto, è qualcosa che ci piace pensare, soprattutto perché forse in questo mondo la cosa più difficile da sopportare è il senso della perdita, il senso della definitività della sottrazione di una persona cara, e quindi l'ipotesi di poterla ritrovare, specialmente per un animale domestico che ha una quantità di esistenza limitata, è qualcosa di fondamentale. Hallström riesce a tenere il gusto del dramma e del melodramma a livelli altissimi senza mai apparire ridicolo. Devo dire, io che me la prendo spesso con il doppiaggio, non è affatto male l'idea Gerry Scotti in doppiaggio, che è qualcosa che modifica e anche di molto il senso, secondo me, anche artistico e creativo del film, ma che crea una versione italiana diversa da quella originale, ma interessante. L'unico problema è che a un certo punto, soprattutto se magari siete cresciuti guardando Mediaset, ogni tanto hai l'impressione di vedere Passaparola e Paperissima, però Scotti, un po' come faceva in Villaggio, in Senti chi parla, dà un'anima a quel cane, gli dà uno schema interpretativo, gli dà una forza estrema nel raccontare quello che è anche l'animo un po' buffo di quest'uomo e di questo cane. Quindi alla fine io lo promuovo, certo non è un capolavoro e non lo ricorderemo come tale, ma sicuramente è promosso, ci potete andare con tutta la famiglia. Ok Tino, seguiamo gli ordini della dottoressa, vieni qui. Prendi la palla. Dopo una lunga passeggiata devo prendere la palla. Prendi la palla, avanti. Perché vuole punirmi? Tino, dai, sei un cane, ora prendi la palla, cacciala. Dai, Tino. Tino, questo è imbarazzante, chiaro, avanti. Spiacente, non prendi oggi, non sono dell'umore. E poi la vidi. E tutto cambiò. Il mio cuore palpitava. Wow. Che presa. E allora, teniamo un attimo in freezer il nostro Boris, che ritroviamo fra poco per parlare di altri film in uscita. Prendiamoci una prima parentesi per giocare insieme col nostro film misterioso di oggi. Sei single, vero? Beh, io sono... suppongo di sì. E come vi siete conosciuti voi due? Oh... E allora, se avete già individuato il film, scriveteci titolo e vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sveleremo alla fine di questa puntata, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Do you know the enemy? Do you know your enemy? Know Your Enemy, la canzone dei Green Day nell'interpretazione tratta dal musical American Idiot, che arriva proprio da stasera al Teatro Coccia di Novara, oggi e domani, sabato e domenica, e poi dal 26 di gennaio al Teatro della Luna di Milano, il musical scritto da Billy Joe Armstrong, fondatore dei Green Day, con tutte le musiche dei Green Day, che è stato tra l'altro un grande successo a Broadway nel 2010, dove è stato in scena un anno, ha vinto anche due Tony Awards, e che per la prima volta arriva in Italia con orchestra dal vivo, con una band di cantanti davvero molto molto interessante, e con la regia di Marco Iacomelli, che già la scorsa stagione aveva portato in scena Next to Normal, e comunque si conferma sul filone di una come dire, di un musical che vuole raccontare anche qualcosa di più, insomma, del semplice intrattenimento. Do you know what we're fighting for? When it's not worth dying for? Questa è 21 Guns, sempre dai Green Day. Volevo anche ricordarvi che questo American Idiot, che racconta la storia di tre personaggi attraverso molte molte traversie, ebbene, sta per diventare anche un film, e questa è una notizia abbastanza recente. La HBO sta lavorando a un film sul musical di Billy Joe Armstrong, che potrebbe essere pronto proprio nella prossima stagione. Al momento la sceneggiatura è in fase di revisione. Si sa che il frontman dei Green Day tornerà a vestire i panni dello spacciatore San Jimmy del musical, e che quindi avrà anche una visibilità dentro nel film che la HBO sta preparando. Allora, al Teatro della Luna dal 26 di gennaio, oggi e domani al Teatro Coccia di Novara, American Idiot dei Green Day. A questo punto, linea alla regia, fra poco torniamo, parliamo dell'ora legale di Ficarra e Picone, di Arrival, di Denis Villeneuve, restate con noi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. La rosa purpurea. L'immondizia ci sta seppellendo vivi. Perché il traffico non si può più camminare. Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento. Sono tutti con te. Al nuovo sindaco. Cambiare è possibile. Sì. Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia. Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare. Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. E allora avete sentito Ficarra e Picone, Salvo e Valentino in questo paesino della Sicilia, Pietramare, divisi fra legalità intesa come parola e legalità intesa come fatto. E poi in fondo tutta l'Italia è un po' così, no? Cioè richiamiamo a gran voce la legalità, l'Italia, paese che è strano, non è un paese normale, eccetera, eccetera. Poi quando ci siamo dentro, a partire da noi stessi, sì, vabbè, però dai, questa cosa qui non era proprio così, ma sì, questa anche se la faccio in quest'altra maniera. Ecco, è su questo che si sviluppa L'ora legale, il film nuovo di Ficarra e Picone, che tra l'altro è partito bene al botteghino, andando subito in testa in questi primi giorni di programmazione, e che come sempre con Ficarra e Picone ci fa ridere con le battute, ci fa ridere con le situazioni, ma cerca anche sempre di partire da un presupposto di mettere un po' le mani in pasta nel momento del paese. E questo, Boris, è sicuramente un film molto vicino al momento del paese, cioè a questo grande desiderio di cambiamento, ma poi anche al fatto di tirare indietro la manina nel momento in cui bisogna fare davvero il primo passo. Ma ecco, io lo dico facendo un grande complimento a entrambi. Ficarra e Picone, fin da Nati stanchi, che anche era una visione delle contraddizioni dell'italiano che impreca contro l'Italia lassista e poi però è più lassista dell'Italia stessa. Ficarra e Picone sono gli antesignani di Zalone, gli antesignani dolci di Zalone, cioè dove Zalone ci mette il sarcasmo feroce, quella voglia anche sordiana di metterci contro e davanti la mediocrità dell'italiano, loro la coccolano di più, insomma, coccolano le nostre contraddizioni dicendoci che in fondo siamo così e oltre che brava gente siamo anche un po' cialtroni. Lo fanno secondo me con un'eleganza che li porta a piacere, forse in maniera più universale, anche se quantitativamente minore di Zalone, perché hanno una mimica anche molto piacevole per i bambini, molto potente, diciamo, per quella che potrebbero essere i family movie, e però hanno quell'intelligenza, quella arguzia che permette loro di entrare all'interno del senso comune e dire qualcosa di intelligente, dire e mostrare qualcosa che va oltre la banalità. Cioè quello che voleva fare il cinepanettone, cioè quello di raccontare l'Italia, loro lo fanno realmente, e lo fanno a volte, come è successo con Nati Stanchi, lo fanno a volte anche anticipando quello che succede, perché se è vero che adesso la tempesta dell'onestà, quella con l'H finale, è un qualcosa che conosciamo e di cui spesso vediamo anche nella realtà la comicità della realizzazione, Quando loro cominciano a scriverlo, l'ora legale, quando cominciano a girarlo, non aveva svelato tutte le sue possibilità di commedia. L'altro merito, questo puramente cinematografico di Ficarra e Picone, è quello di contornarsi sempre di comprimari di alto livello. Qui per esempio il sindaco non sarebbe così efficace se non ci fosse quell'attore veramente sottovalutato di Vincenzo Amato, che trova più fortuna negli Stati Uniti che in Italia, e che incarna perfettamente l'utile idiota che poi diventa però il centro di una rivoluzione che in realtà nessuno vuole, perché nel momento in cui si vuole ripetere l'Italia va bene, ma se poi a me che ti ho sostenuto raddoppi la tassa sull'immondizia, allora cambia assolutamente tutto. Da qui ne nasce una commedia che forse non porterà mai Ficarra e Picone ad essere Monicelli, ma che li porta secondo me a non sbagliare quasi mai un film, perché hanno una grande attenzione per il pubblico, sono intelligenti, non cercano mai la più facile delle scorciatoie, ma a intrattenere gli spettatori sono tra i più bravi. Quindi secondo me l'ora legale va promosso e anche va visto, perché probabilmente qualcosa più dell'Italia e di noi e delle nostre contraddizioni e di qualche stato su Facebook ci farà venire in mente e ci farà anche forse un po' vergognare. Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare. Signori, sta rovinando un paese. Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così. Loro ce lo devono dire che questo era onesto veramente. Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste. Ha introdotto la differenziata. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati. Oh, di tazzine. Ho capito, ma voi a Milano i tovaglioni sporchi di sugo dove li buttate? E allora, Ficarra e Picone promossi al cinema con l'ora legale, è tornato il momento di giocare insieme con il nostro film misterioso di oggi. Siete la nostra seconda coppia dello stesso sesso oggi. Benvenuti. No, veramente noi... Assolutamente sì, manca solo il dono di un bimbo per farci sentire completi. E allora avete capito di che film si tratta? Scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it con il vostro nome e cognome, con il vostro indirizzo e con il titolo del film. Noi fra poco sveleremo il film misterioso di oggi e anche il vincitore di quello della settimana scorsa. Adesso invece torniamo al cinema in sala con Arrival. Buongiorno, l'argomento che affronteremo oggi saranno le lingue romanze. Vuole condividere con noi? 8 ore dopo l'atterraggio non ci sono segni di un primo contatto. Gli oggetti sono alti almeno 450 metri. Mamma, che cosa succederà? Non lo so. Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi. Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Weber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ha una cosa che deve tradurre per me. Questi sono gli extraterrestri, tornano gli extraterrestri al cinema con Arrival di Denis Villeneuve, con Amy Adams protagonista e poi nel cast Jeremy Renner, Forest Whitaker. Una storia di fantascienza che più fantascienza non si può, la storia di una linguista, appunto Amy Adams, di fama mondiale, con un dramma in famiglia non metabolizzato, che si trova di fronte a una richiesta, quella che avete sentito, quella di trovare un contatto con un monumentale monolite che galleggia praticamente sulla Terra, così come galleggiano sulla Terra anche 12 navi aliene, astronavi aliene, pronte a entrare in contatto. Ecco, qui non c'è subito il tema, la paura dell'invasione, del diverso, la difesa, eccetera. C'è una richiesta di contatto e Louis Banks dovrà essere il tramite, dovrà decifrare il linguaggio grazie al fatto di essere una linguista, dovrà cercare il modo in cui entrare appunto in contatto con questa civiltà aliena. Boris, un film che ha molto colpito, ha molto fatto discutere nella sua presentazione veneziana, che arriva nelle sale e che, al di là della cornice di fantascienza, che sicuramente è anche molto curata in termini di immagine, ragiona proprio sulla lingua e sul linguaggio come media che doveva essere quello che ci teneva insieme e che forse invece si sta un po' smarrendo per strada. se parlavamo di Schindler's List come di un film capitale e in qualche modo dirimente della cinematografia sull'Olocausto, mi viene in mente che potrebbe essere Inception sulla fantascienza, lo stesso tipo di capolavoro, cioè che porta il lavoro a capo. E da lì noi abbiamo iniziato un percorso verso una fantascienza intellettuale tutta introiettata, fatta di pochi effetti speciali, magari clamorosi, ma di molti ragionamenti, che vede in Arrival un'ottima espressione, soprattutto alla luce del fatto che sembra anche dall'altra parte uno studio preparatorio al sequel di Blade Runner, che farà lo stesso regista Denis Villeneuve. Il punto di Arrival è che ha in sé tutti i grandi pregi di un regista come Villeneuve, che secondo me è uno dei più interessanti in questo momento su piazza, e anche però tutti i suoi difetti. Questo perché? Perché finché noi ragioniamo sulla lingua, ragioniamo proprio su quello a cui tu accennavi, no? Su questo strumento intellettuale e comunicativo di globalizzazione e di unione, il tutto è molto interessante, anche perché c'è una grande attrice come Amy Adams, anche perché c'è anche l'ironia di come un militare non può arrivare dove può arrivare invece una professoressa che viene snobbata dai suoi studenti, ma che in qualche modo deve salvare il mondo con gli strumenti che ha imparato nella sua professione. E fino a che, insomma, questo problema della comunicazione è centrale, va benissimo. Quando poi questo problema viene risolto con una delle svolte di sceneggiature più forzate che io ricordi nella storia moderna del cinema, cioè quando in qualche modo viene decifrato il linguaggio degli alieni, arriva il difetto principale di Villeneuve, che è sempre talmente angosciato e ansioso di mostrarci il suo talento da dimenticarsi sostanzialmente di chiudere i suoi film, da dimenticarsi il fatto che il film è anche un oggetto da perfezionare, da portare fino alla fine. E da lì, secondo me, nella seconda metà Arrival comincia a zoppicare, pur mantenendo le sue incredibili intuizioni sia visive che narrative. A mio parere non è così facile fare un'opera di questo tipo, e non lo è ancora, e lo è ancora meno con un regista che si specchia troppo facilmente e che diventa alla fine troppo ombelicale. Di sicuro però rimane uno degli esempi di fantascienza moderna più interessante, e secondo me va visto sia per il talento del regista sia per questa protagonista, che davvero sembra far innamorare qualsiasi macchina da presa gli arrivi addosso, che sia di Ford o di Villeneuve. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni? Io torno dentro. Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati. Voglio tutti al lavoro qui. Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa. Che cosa dice? Portare arma. E allora, era Arrival, l'ultima proposta cinematografica di questa settimana, di cui abbiamo discusso con Boris Sollazzo, che saluto e cui do appuntamento la prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso noi andiamo a dare di nuovo la linea alla viabilità, fra poco torniamo, e prima di affrontare tutto il cinema che c'è, svelare il film misterioso di oggi, abbiamo un omaggio a Pinocchio. Restate con noi. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La rosa purpurea. Le note riconoscibilissime del tema principale del Pinocchio di Comencini, scritto da Fiorenzo Carpi, il tema che ci ha come dire, messi tutti insieme quando eravamo bambini all'inizio degli anni 70, con questo sceneggiato straordinario, denso di cinema, di poesia, e che reinterpretava, ma con grande fedeltà, il Pinocchio di Collodi. Ve la facciamo ascoltare perché Pinocchio diventa un'opera teatrale, un'opera di prosa teatrale, tra l'altro su quello che è probabilmente il palcoscenico più prestigioso d'Italia per quanto riguarda la prosa, ovvero quello del Piccolo Teatro di Milano, con la regia di un regista che ormai è una certezza internazionale come Antonio Latella, che però appunto da proprio questo weekend e fino al 12 febbraio al Piccolo porta in scena Pinocchio. Quanto c'è nel Pinocchio che si vedrà dal vivo sul palcoscenico del Piccolo di quell'esperienza? Il regista Antonio Latella è una persona di circa 50 anni, quindi di quella generazione che è vissuta proprio con quel Pinocchio, aspettando di volta in volta la nuova puntata. Ebbene, quanto di quell'immaginario si è sedimentato dentro questa storia, e magari qualcosa è rimasto anche imbrigliato nello spettacolo che vedremo al Piccolo? Antonio Latella. Per me fu un qualcosa di miracoloso, perché veramente ricordo ancora oggi sai quando aspettavi che passasse una settimana per vedere l'altra puntata, perché andava a toccare qualcosa di così intimo, così personale, delle famiglie italiane, soprattutto io parlo nel mio caso di una famiglia di immigranti, quindi raccontava molto bene quell'Italia lì. E soprattutto la cosa sconvolgente era non la caratterizzazione dei personaggi, ma l'umanità dei personaggi, il realismo, l'iperrealismo che c'era nel cinema di Comencini. Franco, Cicin Garcia per esempio erano meravigliosi in quei ruoli, no? E credo che sia stato qualcosa di estremamente formativo per me, non solo da un punto di vista testuale, ma proprio dell'immaginario, di come aveva fatto diventare il realismo fantastico. Certo. Hai raccontato un aneddoto in conferenza stampa che mi diverte molto, perché io sono un collezionista di figurine e quell'album ce l'ho, di quando dalla bustina tirassi fuori la figurina della casa della fata. Questo mi fa venire in mente una domanda: lì c'era un impianto scenografico clamoroso, cioè pur traspirando la povertà di quell'Italia della ricostruzione eccetera, però lì si facevano le cose con i budget. È vero, però si facevano le cose con il budget, ma anche con il grande artigianato italiano, cioè non c'erano gli effetti speciali, stiamo parlando di un tonno di cartapesta per esempio, meraviglioso, o stiamo parlando di questa casetta costruita sul lago, che era una reale casetta di legno bianco costruita, quindi lì c'era il budget, ma il budget premiava il grande artigianato italiano, che piano piano queste maestranze, per tanti motivi ce ne sono sempre meno, no? Ma quello secondo me faceva la differenza del grande cinema italiano. Quindi mi sembra che tu ti senta col cuore molto più vicino al Comencini dei nostri anni che non al Pinocchio Disney di qualche anno prima. Beh, sì, vi posso dire che quello di Disney non l'ho neanche visto, penso di averne visti 5 minuti. Uno dei Pinocchi più traditi, sì, della storia tirolese addirittura. Sì. Senti Antonio, ti faccio un'ultima domanda invece proprio sul tuo spettacolo: come fa a essere contemporaneamente archetipo e ultramoderno il personaggio di Pinocchio? Credo che sia proprio nell'aver scelto un attore che nel suo dire è incredibilmente contemporaneo, cioè ha un approccio del dire che non è novecentesco, quindi non è citazione della parola, ma è vivere la parola in quel momento, e credo che questo permetta a Pinocchio di essere contemporaneo. E allora con Antonio Latella per parlare del Pinocchio del Piccolo Teatro di Milano fino al 12 febbraio. E adesso torniamo alle visioni, diciamo, che ci sono più familiari, le visioni domestiche, i film da vedere in casa, partendo da qualcuno che ha vinto una quindicina di film da vedere in casa con il super cofanetto con cui avevamo giocato 7 giorni fa. Ma che sta facendo? Perché non lo denuncia? Perché è furba. Ma così si farà arrestare. Però uscirà viva da lì. Guardi, si è messa la fede. Guardi, si è messa la fede, c'era chi guardava, avevo cercato di aiutarvi. Ebbene, si trattava della finestra sul cortile. L'altra clip che avevamo fatto ascoltare era quella della donna che visse due volte. Siamo stati un po' meno difficili della settimana precedente, in cui nessuno era riuscito a indovinare i sabotatori e il sipario strappato, tutti e due insieme ovviamente. E allora, la finestra sul cortile, la donna che visse due volte valgono a Francesca Meroni di Como il super cofanetto con 15 film di Alfred Hitchcock, un regalo davvero magnifico, che ci facciamo raccontare dal nostro Giulio San Giorgio, nostro e di Fil TV, anzi forse prima di Fil TV, ma noi lo sentiamo nostro, Giulio San Giorgio in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, un cofanetto grandioso che si chiama Complete, anche se poi ovviamente non è un cofanetto completo, visto che Hitchcock ha girato a contare sui lunghi più di 50 film, ma l'oggetto veramente è molto molto bello e da invidiare. Contiene 14 film della Universal e uno della Paramount. Nell'ordine sono Sabotatori, L'ombra del dubbio, Nodo alla gola, La finestra sul cortile, L'uomo che sapeva troppo, La congiura degli innocenti, La donna che visse due volte, Psycho, Gli uccelli, Marmi, Il sipario strappato, Topaz, Frenzy, Complotto di famiglia e Caccia all'alo. Insomma, non ho quasi più fiato. Non c'è nessun disco aggiuntivo di contenuti speciali esclusivi, sebbene in molte descrizioni del prodotto lo si annunci, ma il contenuto è veramente strepitoso, tra le cose più divertenti, appassionanti, spettacolari e anche complesse che ci abbia regalato la storia del cinema. In fondo veramente di Hitchcock bastano i film. Se volete qualche contenuto speciale, invece consigliamo la lettura di un grande classico che è Il cinema secondo Hitchcock di Truffaut, che è un libro che vale tutti gli extra possibili. Che ha dato a sua volta adito a un film durante la scorsa stagione e che ha anche fatto ripubblicare il libro, quindi è un libro che si ritrova. Beh, l'intervista di Truffaut a Hitchcock, che è il caposaldo di chiunque si avvicini al cinema, è un'opera che va assolutamente letta. Giulio, passiamo ai film da vedere in casa, cominciando con un film che mi sta molto a cuore, perché mi era piaciuto molto quando ero uscito e trovo che forse non abbia ancora trovato la sua collocazione definitiva e la sua importanza definitiva nella storia del cinema. Stiamo parlando dei Figli degli Uomini di Alfonso Cuarón. Sì, siamo nel 2027 a Londra, in un mondo caotico in cui gli umani non possono più procreare. E c'è un professore di storia, un ex professore totalmente disilluso, che si lascia convincere dalla ex moglie rivoluzionaria a condurre una donna miracolosamente rimasta incinta dopo 20 anni di sterilità generale presso un luogo dove può aiutare gli scienziati a salvare il futuro dell'umanità. È veramente una grande fantascienza apocalittica tratta da un romanzo molto insolito di P.D. James e diretta da Alfonso Cuarón, con un taglio esplicitamente realistico che rende la vicenda ancora più inquietante e attuale, con riprese dal vero, molta macchina a mano e un uso studiato del piano sequenza che culmina in un lungo esercizio di bravura finale. Con Gravity poi Cuarón si confermerà uno dei nomi forti del genere fantascientifico, insomma, ma questo rimane comunque un grande film. E lo potete vedere su Iris alle 13.10 di domenica 22 gennaio. Sempre Iris è la protagonista, questa volta in notturna, martedì 24, di una coppia di film di Pupi Avati, del primo Pupi Avati, che è bello riscoprire, Giulio. Sì, sono due prelievi dal miglior periodo, quello che secondo me è il miglior periodo di Avati, quando tra thriller gotici tesissimi e carnevali un po' surreali faceva film con una libertà e una felicità compositiva che poi negli anni Ottanta diventeranno un realismo magistrale, poi forse alla fine anche un po' di maniera. Iris manda in onda prima Tutti i defunti tranne i morti, che è una sorta di giallo demenziale che prende in giro i film precedenti di Avati con un fare molto scalcagnato, ebro, farsesco, che avevamo già visto in un altro bel film di Avati che si chiamava Bordella e che fa un po' il verso a un capolavoro come La casa delle finestre, alle finestre che ridono, che Iris manda in onda di seguito e che è una rivisitazione padana del genere gotico legata a miti, orizzonti e folklori del territorio. È un film che visto oggi fa ancora paura, ve lo assicuro, quindi è qualcosa di raro. Gli orari sono 1.35 della notte di martedì 24 e 3.20 per i due film, sempre su Iris. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione e vi devo però prima raccontare qual era il film con cui abbiamo giocato, il film misterioso di oggi. Si trattava di Bridget Jones Baby. I vincitori la prossima settimana ascoltando La Rosa Purpurea qui su Radio 24. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.